vede distrugger sempre, scintillanti, le fiamme vede alzarsi fino al cielo, mentre il fumo quei luoghi circostanti copre di negro velo. Crepitano nel fuoco gli edifici, tutto tracolla tra le fiamme ardenti. Insieme coi templi fiaccano gli uffici infami e fraudolenti. Tutto il popolo vuole che sia spento del fatale passato e non un segno, che ricorda il vigliacco sopravvento ritenere il vuol per pegno. O santa plebe, o falange d'oscuri e virtuosi eroi, la vostra storia tramandata sarà in tempi più puri, vi darà onore e gloria. Nel nuovo mondo liberato, intanto, sarà felicità, sarà l'amore, il diritto alla vita sacrosanto, il bando del terrore. Questa è Rivolta del novembre 1934 di Oreste Verucci. Io me lo vedo camminando in una vigna lì intorno a Norcia, nella incredibile Valmerina.